Che succede? Sta succedendo di nuovo. È la seconda diretta di 100 celle Avengers dagli studi di Radio Forte. Sigla! Temi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. Cento celle Avengers, la musica si riprende. È incredibile, siamo tornati qua per la seconda puntata in diretta, ma in realtà la 17ª puntata di 100 celle Avengers. Ripeto, la seconda in diretta dai tunnel, dai meandri di Radio Forte, in compagnia di diverse persone. Facciamo un rabarbaro iniziale. Ok, ma ce l'abbiamo anche digitale. Ma non rende l'idea, cioè noi siamo qui in presenza, quindi possiamo fare dei rabarbari che levati. Comunque non abbiamo neanche chiuso la porta, cioè veramente una puntata casual che può succedere qualsiasi cosa, ci imbocca qualcuno, ci fa un panico e noi siamo qui a fare gli scemi con le cuffie. Ma comunque siamo felici di dare il benvenuto a questa nuova casual diretta e soprattutto io, cioè, finisco di parlare e saluto alla mia destra Silvano. Buonasera a tutti, salve. E saluto alla mia sinistra, la Gabri. Buonasera a tutti. Che comunque new entry, scusa, non volevo rovinartela. E alla destra ulteriore, la Betta. Buonasera, giovani. Comunque era la sinistra. E ultima ma non meno importante, la Virgi. Ciao a tutti. Ma perché questa cosa del nord di mettere l'articolo là? Non lo so. Però sono contento di essere con voi perché comunque se sbaglio mi corrigerete. E che cosa succede oggi? Fondamentalmente perché non abbiamo una scaletta? Perché quel poco che avevamo è decaduto e quindi lo stiamo ritrasformando via via, ma non mancheranno gli appuntamenti di cui i nostri ascoltatori sono ghiotti. Intanto parlando di ascoltatori vogliamo dire i contatti, Silvi, vogliamo dire certo, come fa la gente a interfacciarsi con noi. Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro canale di Telegram 100 celle Avengers, scriveteci mi raccomando, mandate messaggi vocali che oggi ho capito come si fa, non lo sapevo. Dopo abbiamo la nostra stanza Jitsi, Music Forte Factory, entrate, ci vedrete live, adesso vedete la faccia di Daniele e la faccia di Gabri che vi stanno salutando, la mia mano sulla sinistra. Incredibile. Questi sono i contatti migliori e poi, non lo so, tu pensi di essere, che ce ne possa essere un altro, diamo i nostri numeri di telefono, cosa dici? Sì, 328 45 ah, proprio 7. I nostri, ok, grande. Certo, se non abbiamo problemi di spam. No, figurati, però vabbè, comunque... Sono contento che hai dato soprattutto i contatti della stanza Jitsi, che tutti ovviamente ormai conoscono, tutti hanno vissuto questo Vietnam della pandemia, quindi hanno conosciuto questo simpatico software che senza dover installare niente vi permette di entrare in delle stanze e chiacchierare con la gente a distanza. In questo momento la Jitsi Room, che si chiama, ripeto, Music Forte Factory, vi consente di usufruire di una feature, diciamo, della nostra radio, che vogliamo parlare, diciamo, che vogliamo definire la stanza Ghezzi, nel senso che noi, avendo una certa latenza fuori sync, diciamo, possiamo offrirvi lo spettacolo della radio fuori sync, quindi con lo speaker che apparentemente, come il vecchio Enrico Ghezzi, sta dicendo un'altra cosa. Ma forse ho detto troppo, forse è il momento che comunque passiamo un pezzo. Confesso un po' come sto oggi. Sono un po' imbriacato ieri, c'è un mal di testa. Ah! Sponza, butta giù la ronza, butta giù la panza, butta giù la spronza, butta giù la ranza. Anzi butta un occhio e dimmi che t'avanza. Sponza che non va in vacanza ma rimane a galla, dice che sta pronza e bagni caracalla. Sponza ancora canta dagli anni 90, l'hanno pizzicato la 220 o la Taranta. Della versità lui ce la farà. E siamo di nuovo qui a spoilerarci la scaletta vicenda, perché non chiudiamo i microfoni quando parliamo. Ma quindi che facciamo adesso? Quindi adesso io pensavo di chiedervi ancora come state. Anzitutto ringraziamo Alfredino, autore del pezzo che abbiamo appena sentito, che narra di un supereroe. Eh sì, non ci sei solo tu, Iron Man. Tra l'altro ci siamo anche scordati di salutare Iron Man. Sì. Vabbè, però questo è anche perché tu l'altra volta ci hai bullizzato e quindi noi abbiamo voluto dimostrarti che fondamentalmente ci siamo. Non è vero che non, che defezioniamo la diretta. Mi sembra che manca qualcuno. È vero, è vero, è vero, dobbiamo dire che manca, però c'è, cioè, c'è stata subito la sostituzione, il turnover, però manca la maestra Viola che aveva il consiglio dei docenti, quindi è una cosa seria, non come noi che siamo qui a cazzeggiare. Probabilmente si collegherà con noi Iron Man, quindi non dubitare, sì, non dubitare, ripeto, di noi, dei nostri potenti mezzi, probabilmente entrerà nella stanza Gizzi di cui si parlava prima e si collegherà con noi. Ma nel frattempo, proprio perché cadono delle cose e ne nascono delle altre, io, cioè, parlando con il nostro amico Silly alla mia destra, sì. Allora, anzitutto non so se lo posso dire, però Silly si è occupato un po' della, cioè, diciamo, playlist, e quindi mi ha mandato dei pezzi, come normalmente avviene in una redazione, alle 6:30 di mattina. Sì, questa mattina mi sono svegliato presto, stavo giocando, cioè, con non solo il a me, a tutti quelli che hanno la chat che gli suona, perché io cerco di, ancora di ascoltarla, quindi insomma alle 6:30 mi sono svegliato e ho capito che Silly aveva delle idee sulla playlist di oggi. Assolutamente sì, siccome stavo facendo vedere dei video al cane su YouTube di canzoni che le potessero piacere, allora ho fatto, ma magari piacciono anche a noi tutte canzoni in cui ci sono animali, cani, gatti, cose del genere. Allora, a parte questa origine della cosa, che comunque ci fa pensare un po' al Facebook, ai gattini, è molto popolare, quindi buono, grazie Silly, una rubrica che può attirare moltissimo. No, mi piaceva questo tuo mood comunque di andare sempre un pochino a darci sapienza, soprattutto nell'ambito musicale, quindi, cioè, uno ti dà un argomento e tu così, boom, boom, gli mandi una playlist di 18 pezzi che parlano di animali. Ma perché questo? In realtà l'argomento neanche me l'hai dato, è questo che non hai colto. Te lo sei dato da solo, perché esatto. Comunque, cioè, possiamo dire anche che c'è una nuova mascotte, oltre che non siamo tutti, ma ci sta al posto della professoressa Viola, infettivologa, no, della maestra Viola, ci sta Gabri. Abbiamo anche una mascotte, certo. Che non so dov'è adesso. Adesso sta dormendo, qui, gentilmente, perché tutte le volte che lei ignori dorme. E questo in realtà è un bene, questo in realtà è un bene, perché lei, cioè, solo ieri ha staccato la scheda audio mentre facevamo le prove. Pensate. Oltre ad aver provato a suicidarsi lanciandosi su una libreria qui davanti. Pensate quanta gioia poteva provocare anche in questo momento, in diretta, con tutto il pathos che uno si vive nella diretta. Centocelle Avengers, l'unico programma che ha anche i cuccioli. Capito, non ci facciamo mancare niente. E quindi per questo motivo io ti do la colpa del prossimo pezzo che... Ti prego, metti quello brutto. Metto quello brutto. Tanto abbiamo brutto. Parlato di cani, quindi, cioè, poi non so quanto uno si possa aspettare che noi abbiamo fantasia. For $1 zillion, the question is, who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? everybody having a ball. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a pull my shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball push. Billy Pongers get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. I tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. To where the girls calling them canine. Hey, hey, but they tell me, hey man, start up the party. Hey, you put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Had a ball cause Billy Bongers get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, can't see color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, ready to meet the two. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? È incredibile che cosa siamo riusciti a mettere su Radio Forte 100 Celle Avengers solo perché ci siamo fatti la mascotte. Io chiedo scusa perché veramente faceva cagare questa canzone. No, vabbè, no, te comunque c'hai un dovere didascalico. Stavo dicendo prima che dovremmo lanciare la tua rubrica dove comunque dici tutte le cose che nessuno sa e nessuno a volte vuole sapere sui gruppi. E quindi anche mo devi dire chi erano. Non lo so. Grande, grande. Erano le 6:30, non lo sapevo. Dozzinale come vogliamo che siano i redattori di 100 Celle Avengers. Grazie per non averlo detto chi era. Ma mi riprenderò dopo, non si preoccupi. Era Renzo Arbore. Era Renzo Arbore. Comunque era tutto dovuto soltanto al vostro cane. Posso dire anche Virgi che sei colpevole. Ma certo, certo. Ma certo. Cioè, scusa se non ti ho coinvolto prima. soltanto un motivo di ordine di presentazione. Comunque, in questa folta puntata, folta di contenuti, noi avremmo dovuto avere una sigla che partiva più o meno così, che faceva... Io ci sarò. Però la stoppo perché non c'è. Attenzione, la rubrica dei solisti è stata sospesa. Allora, finché i solisti non usciranno da questo mood di, diciamo, autocelebrazione, per cui poi appunto quello è poi il motivo che li porta a stare al di fuori della cerchia della musica di insieme, invece insieme, parola che richiama, diciamo, l'insieme, invece loro solisti, quindi non abbiamo pronto il pezzo, ma comunque è questione di momenti, c'è solo altri 15 giorni e lo pubblichiamo. Sì, aspettate, ma ho avuto un problema serissimo, ragazzi. Il cane? No, non è stato il cane, il problema è stato niente. Perché se dovevo fare un accidente di pezzo di Max Gazzè, il dio delle piccole cose, in cui a un certo punto lui diceva niente e io continuo a dire niente. Raga, scusate, so verace. Sei da Roma. Esatto. Mi ricorda un po' il gioielliere. Esatto. Ma non si sente secondo me sta GN comunque. No, si sente, comunque Gazze lo fa. Vabbè, comunque questo è il motivo principale per cui a gamba tesa entriamo con la Mesopotamia. Ho fatto la sigla della Mesopotamia accorciata soltanto perché la Mesopotamia è accorciata a sua volta. Quindi abbiamo dal nostro amico, bravo, DR100, che non salutiamo mai perché non salutiamo manco Iron Man e non salutiamo manco Alexa. Sì. Dal nostro amico DR100 abbiamo un estratto, un piccolo estratto di ciò che avviene in questo momento nelle sale prove del Forte Prenestino. Ora, non so se siamo pronti in realtà, eh? Cioè, qua si coglie una preparazione solerte per quello che sembrerebbe essere annunciato come il saggio di fine anno. Il saggio? C'è un po' di rabarbaro sul saggio di fine anno. Ma come il saggio? Scusate, sembrava di non sottolineare il fatto che stiamo di nuovo riuscendo ad avere un saggio in presenza. Ma in che modo, maestro? In che modo? Spampanellandoci sul palco più grande che Forte Prenestino ci possa offrire, cioè quello che poi sarà il nostro boomerang, perché poi ci cacheremo sotto a suonare da lì e quindi poi andrà tutto male. Ma questo succederà dopo, quindi adesso non vi preoccupate, vivetelo come una cosa bella, io penso. L'aspettativa. L'aspettativa e soprattutto il viaggio che ci porta alla destinazione. Poi la destinazione, vediamo, magari la registrazione anche come nel 2018 non ci sarà per un motivo tecnico e andrà tutto bene uguale. Maestro, ma quindi abbiamo il palco grande, quello grande grande. Quello grande grande, perché non sia mai che non si dica che noi non ci pensiamo a certe cose. Yuhu! Oddio che ansia. Ma quale ansia, che bello il palco grande. Quindi vogliamo dire, anche se non proprio ufficialmentissimamente, che intorno al primo luglio, diciamo intorno al primo luglio, avverrà anche questa cosa, per chi ci dovesse amare così tanto da passare al Forte a sentire. Dobbiamo essere precisi, maestro, io mi devo organizzare le vacanze. Capito, cioè è una necessità di tutti, infatti saggio fa rima con ballottaggio, c'è sempre un ballottaggio fra date, una discussione in lista che mo non sto a riportare. Ci potrebbero anche essere dei ballottaggi, perché ci sono le elezioni il 20 giugno. Comunque penso che verrà ristreamata in radio, sulla nostra radio Forte, per tutti quelli che non potessero essere. Come minimo, presenti. Come minimo, perché ormai qualsiasi scureggia la radiofonizziamo, la rendiamo, la riteniamo degna di essere pubblicata anche in radio. Quindi figurati se il nostro saggio non va pure lì in streaming. Per eliminare l'ansia. Io andrei anche su Music Forte Factory, su Jitsi. In diretta, maestro. Sì, sì, sì. Vabbè, i nostri quattro ascoltatori potrebbero. No, montiamo tutta, cioè montiamoci la testa soprattutto. Sulla Rai. Ci vediamo il 20 giugno per montare il palco, maestro. Va bene, però la post-produzione non si può fare, quindi poi ci teniamo le toppe che prendiamo. Va bene. Questo sarà anche un po' il nostro saggio. Dopodiché sarà un qualcosa per cui si prepareranno non solo i mesopotamici della musica d'insieme, ma come abbiamo detto anche i solisti. Quindi diamo appuntamento a due settimane ai solisti per farci sentire la loro voce on Radio Forte. E io ho paura di andare avanti con le playlist di Silvano, quindi mi butto un po' su quello che avevo pensato la nostra giornata. I Fask, anche detti Fast Animals Slow Kids. A cosa ci serve, ma soprattutto dammi più tempo. Questo è il mood, serve a fare minutaggio. È la gag che mi volevo giocare, però il gruppo mi piace molto, come sapete, insomma il genere lo mastico. stanco, non ho più scampo, svengo per prolungare il male. Ascoltando Radio Forte, e questo è Centocelle Avengers. Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Oh regà, comunque sto cane ogni diretta dorme sempre. La prossima volta portiamo un materasso almeno. Si dice materasso. Il materasso, che cosa mi ricorda il materasso? Quella volta che ho dovuto fare il trasloco, avevo questa band hardcore che stava lì, che doveva registrare nel mio studio e non sapeva come pagarmi. Gli ho fatto: ragazzi, ma portatemi questo cazzo di materasso, che io non so come portarlo a casa. C'erano la multi, per la paura. Gli Heisenberg, tra l'altro, saluti a tutti. E praticamente questi ragazzi a un certo punto li ho iniziati a seguire perché li avevo registrati e sono entrato in questa scena, diciamo, punk hardcore, che fino all'altro ieri non sapevo, diciamo, neanche che cosa fosse il punk hardcore. Ero solo un flamenchettaro con la chitarra, ma non sapevo che cosa fosse il punk, questa roba veloce, questa roba così. E insomma, alla fine mi ritrovo a fare questo programma e chi mi ritrovo vicino? Daniele. Materasso. Daniele, che è una persona che a quanto pare ha fatto questo genere per tanti anni e ancora lo fa nella sua capoccia. Grazie della capoccia. Io ho visto, praticamente mi sono documentato e ho scoperto che lei era il leader cantante di questo gruppo che si chiamavano, come si chiamavano, lo dica lei? Allora, si chiamavano gli Happy Noise, però il leaderismo non mi è mai piaciuto e questo, il infatti, cantante, questo è stato allora facciamo il tallone di Achille, perché poi se mi fossi così imposto, no, sto scherzando, comunque sarebbero andate diversamente le cose. No, saluto gli amici Happy Noise che sono anche inconsci di questa intervista che stai. Ci dispiace questo. Questa cosa ci dispiace, lo so che dispiace in prima persona anche a lei, in quanto lei è democratico, non era leader di questi Happy Noise, ma era componente di questi. Ero collaborante, per quanto siamo veramente nell'epoca della cancel culture, però sì, insomma, comunque. Siamo al Forte, tra l'altro, quindi lei non poteva essere leader, è giusto. Era assolutamente leader incontrastato degli Happy Noise, sono stato il timoniere un pochino degli Happy Noise, possiamo dire. E comunque, vabbè, diciamo che Silvano sta facendo pratica. Assolutamente. Poi sì. Poi intervisterà gente vera che magari suona ancora e che, cioè, però nel senso, intanto c'ha, cioè, vicino me, quindi mi sta sfogando, diciamo, le sue doti di intervistatore, perché lui aveva conosciuto anche i Fast Animals and Slow Kids. Io ho conosciuto i Fast Animals and Slow Kids, li ho visti 18 miliardi di volte, la 18 milionesima volta per una radio web, li ho anche intervistati, come ho anche intervistato purtroppo anche il loro produttore attuale, che sarebbe il produttore di un gruppo che veramente mi vergogno a nominare. Non facciamo partire i dissing, per favore, no, assolutamente prima, no, non facciamo partire. Erano dei ragazzi molto puntata pilota zero. Ma comunque non parliamo di persone, che erano simpatiche e poi sono diventate famose. Parliamo appunto invece del suo gruppo. Quelli di questo simpatici. Gruppo, gli Happy Noise, che a quanto pare io ho visto le uscite dei dischi. 20 anni di storia, 94-2014, l'ultimo disco, Abitudini, è 20, corretto? È corretto, 20 anni di storia e di distanza anche fra il primo e l'ultimo disco, quindi così è facile fare, diciamo, 20 anni di storia. Infatti, con due dischi, uno collocato al primo anno e uno al ventesimo, poi in mezzo... In mezzo tanti concerti, giusto maestro? Tutta storia, fai la storia, cioè, comunque questo è il nostro modo. Vabbè, abbiamo partecipato un po' al mondo live. Comunque, lei si ricordi che a registrare un album dei Pink Floyd, quanto ci hanno messo, mi scusi, a registrare The Dark Side of the Moon? Lo dica. Non lo so, perché tu sei quello delle nozioni. Ci hanno messo 4 anni a registrare The Dark Side of the Moon, lo sappia. Quindi che lei ci abbia messo 10 anni, lavorando lei, lavorando i componenti del suo gruppo, per fare un capolavoro come Abitudini, ci sta tutto. La cosa più bella che ho notato è la differenza delle copertine. Copertina 94, simil Duki. Copertina 2014, una figata pazzesca, maestro. Nel senso che simil Duki, quindi non ti piaceva. Mi piaceva tantissimo nel 94, però nel 2021... Nel 94 che cosa è uscito? Duki. Duki. E noi quanti anni ci avevamo? 15 anni. Questo lo sa lei, maestro, io non voglio parlare della sua età. Se tu a 15 anni non emulavi, non lo so quando l'hai fatto. Noi io l'ho sempre fatto, io continuo anni. A emulare, maestro. Poi avevamo un ottimo grafico, che non sto a dire, però insomma... E l'avete tenuto fino al 2014, perché pure la copertina del 2014 è bellissima. No. Il grafico è cambiato, però... Senta, ma vogliamo parlare di quest'album che si chiama Abitudini? Dove è stato registrato? Chi l'ha registrato? Io so che lei è anche fonico, ma per caso ha fatto qualcosa anche in questo ambito? Già mi sembra che questa intervista sia una lodata più sbrodata. No, io vorrei capire se l'ha fatta a casa o no. Diciamo che sì, fa parte di quei progetti che poi si portano avanti, cioè a livello indipendente, nel senso ce lo siamo fatto da soli, sì, essendo chi fonico. E, però fondamentalmente accomuna questo progetto a quello del 94, quello Duki, simil Duki, il fatto di essere stati partoriti e gestiti all'interno del CSOA Forte Prenestino, che ci ha offerto per lo più appunto tutto quel, diciamo, quelle strutture, quelle cose che offre, diciamo, ai musicisti, che non sono per niente scontate, soprattutto quando si progetta, diciamo, di fare qualcosa di più che non appunto il demo o quello che è. E quindi fondamentalmente siamo entrati da pischellissimi nel castello fatato del Forte Prenestino, fiondati nel palco del primo maggio, come così come amava fare il Forte nel promuovere anche i gruppi emergenti e niente, cioè questo è un po' il fil rouge dei vent'anni, anche se ovviamente abbiamo suonato anche altrove eccetera eccetera, ma diciamo ci sentiamo abbastanza di casa, ecco perché la tua intervista è un po' diciamo telefonata. Ma quale telefonata? Una telefonata lunga la vita, se lo ricordi sempre. Assolutamente. E tra l'altro, quindi lei mi sta dicendo che sia il primo disco che il secondo disco, che hanno una distanza di 20 anni, sono stati registrati negli spazi del Forte, nelle sale di registrazione del Forte Prenestino? Nei meandri, sì, in questi studi fatti tutti a tunnel. Poi, sì. E lei è stato aiutato da qualche altro fonico o ha fatto tutto da solo? No, per carità. Soprattutto il progetto del 94 mi vedeva essere un pischello, quindi assolutamente ignaro di tutte le tecniche incredibili che poi sono andata a prendere nei tempi Shaolin dopo, quindi no, il primo progetto sicuramente l'ha fonicato qualcun altro. Ma poi parleremo anche di questa storia di come funziona registrare, che uno prima deve registrare, poi deve missare, poi deve masterizzare, però a parte questa parte qua che si potrebbe fare un suono già scherzo, là la sigla. Non ce l'abbiamo, ma soprattutto non abbiamo più questa verve per la didattica perché una volta Iron Man soprattutto sviluppava in radio, diceva che dovevamo insegnare a tutti come collegare i microfoni, come è passato quel momento, è passato, adesso tutti al Pigneto e basta. Però qualcosa è rimasto, maestro, ad esempio le vostre pagine. Io ho visto la vostra pagina di Facebook, la vostra pagina di Reverb Nation, mi ha riportato nel 2010 Reverb Nation, e a quanto pare su Reverb Nation c'era una data che voi avete fatto in Europa. Dove avete suonato? Dica un po'. Sì, mi fai... cioè, mi cogli in fallo, nel senso, in Europa, cioè, così mi fai dire che siamo stati in più di un posto. Oh, non così so ci di quale piace. Stai parlando. Allora, guardi, parliamo di posti che stanno sul Mar Baltico. Dove sei andato sul Mar Baltico, maestro? Vicino al Mar Baltico. Non era proprio il Mar Baltico, sì. Vabbè, vicino alla Francia, tra la Francia, là sopra la Germania, là, come volevo dire, dai. Allora, il nostro Silvano comunque è dotto di musica, dotto di geografia, no, musicale, ma geografia un pochino peggio. Forse ti riferivi all'Olanda. Esatto, i Paesi Bassi. L'Olanda che si affaccia sul Mar del Nord. Sì, Iron Man, lo so che anche tu rabbrividisci, però comunque sì. Mi offri sì lo spunto per dire che abbiamo anche affrontato questa cosa con un camper sfasciato, come proprio come nelle storie, quelle che si raccontano e parlano finte. Abbiamo preso con un camper che andava a 80 all'ora e siamo arrivati fino a su in Olanda, quel posto che noi sognavamo tanto per motivi che tutti i giovani del tempo conoscevano. E non ci pareva vero, quindi, di andare in tour in quello stesso posto dove cercavamo di andare sempre con Interrail, biglietti vari e cose. Quindi grazie per avermelo ricordato, Silly. Ma dove sei stato oltre che in Olanda a suonare con il tuo gruppo, gli Happy Noise? Ecco, questo è il momento in cui si capisce che la cosiddetta Europa si riduce appunto oltre all'Olanda alla Svizzera. Beh, te pare poco. Cioè, paese neutrale, per carità. Poi si paga un bollo unico, per cui se ci imbocchi anche solo una volta paghi 50 euro, che sarebbe l'annuale. Perché i svizzeri sono, questo lo segnalo a chi dovesse passare per la Svizzera soltanto non ci passate per suonarci una volta. Cioè, comunque pagate il bollo autostradale per tutto l'anno, non è che pagate, diciamo, il... Vabbè, ma questo può interessare relativamente. A differenza che in Slovenia. Soprattutto potrebbe essere cambiato. Io a questo... Io vorrei mettere un pezzo, maestro, del suo secondo album, se lei è d'accordo, perché è quello che ho sentito stamattina con Ariel insieme alle canzoni per i cani e i gatti, e devo dire che ha apprezzato molto. Ma quindi sapresti dove trovarlo? Perché io... Guardi, io stavo su YouTube, ho semplicemente scritto Happy Noise e ho trovato tutto il vostro album, Abitudini. Incredibile, forse ce l'abbiamo. Che suona da paura, tra l'altro, anche su YouTube, quindi figuratevi il CD originale. Ma si può avere il CD originale, maestro? Si può avere anche il CD originale... C'è la fila. C'è la fila, ma soprattutto c'è una prassi per averlo, che insomma poi spiegheremo. Bisogna attivare lo speed, se non ce l'avete comunque... È una cosa necessaria per il portale Happy Noise. Nel frattempo, abitudini. Abitudini non negoziabili. Passeggero di un'idea che E niente, si è consumata questa cosa che spero i miei compagni non abbiano sentito. Comunque salutiamo Pippo, Pizzacor e Stefano, che sono la formazione ultima, nonché Simone degli Happy Noise. E finalmente passiamo a qualcosa di più serio, più rodato. Però sulle... anche voi eravate quattro, giusto? Sì. Ah, ok, mi stavi dando il gancio. Arriva il gancio, ma proprio veramente tipo Pugge. Spam! Sì, eravamo quattro come tante band, i Backstreet Boys, volevi dire. No, erano cinque. Erano cinque, tra l'altro. No, gli NSYNC. Vabbè, comunque si riferiva ovviamente alla rubrica che tutti stavamo aspettando in realtà. Stavo dicendo appunto già rodata sulle strade di Radio Forte, 100 Celle Avengers, ma non ha un nome, ha una sigla. E adesso non so se vuoi suggerire il nome prima della sigla oppure... Prova a suggerirlo tu. Non lo so, ho un po' paura. Stereofonia Sinfonia Beatles. Fa un po' schifo. No, l'ho partorito adesso così perché mi hai messo al muro. Sì. Sigla! Eccoci qui. Dire che io non ho riconosciuto uno per il momento. Vai, dici. No, non dico uguale. Non vorrei aiutare gli spettatori che dovranno partecipare al concorso Riconosci gli Who della sigla dei Beatles. Concorsone. Io ce n'ho uno intanto, credo. Va bene, tu segnateli, poi alla fine mi fai vedere e io ti dico se sono giusti o se sono sbagliati, perché sono il giudice di questa competizione, ovviamente. Bene. Oggi ci concentriamo a parlare, ovviamente chiameremo in causa anche il nostro esperto, di quella spiacevole sensazione che proviamo quando, ascoltando un pezzo dei Beatles, ci casca una bella cuffia e come per magia spariscono o i cori o il basso, che poi tra l'altro per me sono le parti fondamentali di una canzone, quindi per me è veramente una tragedia. Le parti più importanti da ascoltare sono i cori e il basso, ma in questa canzone abbiamo un esempio perfetto. Abbiamo Paperback Writer e Maestro alla regia. Ma dove è finita la batteria? Non capisco. Oh raga, ma c'è una cassa rotta. No raga, scusate. Vabbè, la festa è annullata. Però così senti come sente il basso. Ok. Bene, grazie dell'esempio, regia. E oggi si parla di stereofonia. A lei la parola, maestro. Allora, anzitutto vogliamo dire che la cosa di cui parliamo può avere anche un valore positivo, non solo negativo, come quando appunto ti ritrovi per via di una cassa rotta, un auricolare rotto, insomma, a sentire solo una parte di canzone veramente parziale, nel senso mancante batteria, cioè con un'impressione che sia proprio un'altra canzone. La cosa positiva è che a volte ti è utile, come ci fu utile per esempio in questo caso, ma lo cito soltanto per un momento, quando volevamo fare questa canzone e volevamo capire che cazzo di cori fanno. Di qua si sentiva un po' meglio cosa succedeva, poi invece di là chissà. Allora, quindi queste cose aiutano pure. Però in realtà quello che è successo fondamentalmente è che la storia ci ha preceduti nel far succedere le cose e farcele sembrare diverse da quello che sono. Fondamentalmente è una questione di mezzi mancanti. Cioè che cos'è che mancava? Fondamentalmente ancora mancava il concetto di stereofonia, o comunque non era diffuso, perché poi il concetto di stereofonia era anche già arrivato. Mi piace citare gente soltanto perché oggi mi sono rinformato prima di andare a dire cagate varie, e quindi io ho documentato, mi sono documentato su come tutto partisse, come al solito, dai soliti Abbey Road, quindi gli studios dove anche i Beatles hanno registrato, ma già da prima, insomma, il concetto era già arrivato. Il punto, per fare il solito dissing, che poi è arrivato John, sì. E con John intendo John Lennon, ma perché Virginia li nomina sempre solo per nome, che ha detto: cioè, ma questa cosa della stereofonia è bellissima, cioè, ma mettiamo tutta la batteria da una parte e tutte le sinfonie dall'altra. Non parlava così. Ma suona bene da Dio. No, non parlava così e non disse così. In effetti io sto mistificando quello che in realtà è avvenuto, però quello che succede è che effettivamente i Beatles hanno questo mixaggio, almeno per chi ha i dischi originali come la nostra Virginia, e certo, c'ha questo mixaggio particolare che è dovuto appunto al fatto che avevano dato una prima interpretazione alla nuova innovazione della stereofonia, che era stata appunto inventata dal famoso Blum Wayne, al quale si deve la Blum Wayne, cioè la tecnica stereofonica, forse la prima inventata. Comunque fondamentalmente il primo che ha detto: oh raga, ma abbiamo due orecchie, ma perché non sfruttiamo questa cosa? E quindi ha inventato questa parolaccia, o forse c'era già, dell'ascolto binaurale. E quindi da lì in poi ha pensato: mixiamo tutto su due canali. Che ci danno? Cosa ci danno? Ci danno la possibilità di far sentire meglio la roba, non solo differenziandola come livello di volume, ma anche disponendola in un immaginario panorama stereofonico, appunto si chiamava, che lo spettatore ha mettendosi una cuffia o sparandoci due altoparlanti in faccia. E quindi appunto da lì parte il fatto di disporre gli strumenti un po' come li senti, ma cioè, poi invece questa cosa che hanno fatto i Beatles è una roba diversa, nel senso che quando mai tu vai a un concerto e da una orecchia senti solo la batteria e dall'altra senti solo il basso? Non era la resa, non era l'intenzione di rendere la stereofonia binaurale l'ascolto, ma era: utilizziamo i tuoi canali, perché loro sovraincidevano un sacco di robe, un sacco di cose, e quindi poi ricompattavano tutto su una traccia, e così via e così via, finché appunto, questo per i mezzi del tempo, spalmavano tutto sulle ultime due tracce, e quindi questo è il risultato. Che però, cioè, voglio dire, ripeto, per alcuni è un culto, cioè altri che l'hanno sentito dopo hanno detto: oh, vedi che fine, però se poi pensi che non potevano fare altrimenti, rivaluti la cosa, no Virgi? No? Certo, poi magari questa cosa l'hanno iniziata a prendere i Beatles dal momento in cui hanno smesso di fare i live, forse. Aiaie con sta cosa che hanno smesso di fare i live. Hanno smesso di fare live. No, puoi accettare sta cosa, eh. Dattene pace, mamma mia. Non ti va giù, non ti va giù. No, lo accetto e come? No, li preferisco non live. Anche se live, vabbè, io li preferisco sempre. Va bene, quindi ora ascoltiamo invece la nostra personalissima versione di Because, pezzo scritto apposta da John Lennon, che con la sua fantastica interpretazione, maestro, lei riporta sempre, ha deciso di ispirarsi al Chiaro di Luna di Beethoven, e poi ci fece la classica domanda: bello, bello, ma se me lo suoni al contrario? Ma questo però è suonato dalla Virgin. È suonato da... Cioè, raga, suona male da Dio. Because the sky is blue. Siamo di nuovo su Radio Forte 100 Celle Avengers, quasi alla chiusura di questa trasmissione che, mi è volata, cioè dovevamo fare, invece alla fine stiamo quasi che non famo. E allora, volevamo dire, ci sarebbe la chiosa letteraria, quindi il momento che fondamentalmente aspettavamo la maestra Viola, che Bambini aveva preparato la poesia per bambini, ma purtroppo la maestra Viola non c'è. Ho detto la maestra Viola non c'è. Ah, ok. No, sì, vabbè, no, ma anche meno. Però la maestra Viola ci ha registrato una poesia. Quindi il momento letterario è salvo e a questo punto, mettendo comunque un sottofondo adeguato, ascoltiamo. Anche se le poesie vengono recitate e le canzoni cantate, ho deciso di ricordare il maestro con una canzone recitata dal titolo Lode all'inviolato. Ho pensato di ricordarlo attraverso la sua spiritualità, così piena, così viva, il dualismo del bene e del male e l'uomo che sceglie che strada seguire con il suo libero arbitrio. Ne abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure, ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode. Degna è la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio, e alla sua gioia poi si ricongiunge. Sia lode all'inviolato. E quanti personaggi inutili ho indossato, io e la mia persona, quanti ne ha subiti. Arido l'inferno, sterile la sua via, quanti miracoli, disegni, ispirazioni. E poi la sofferenza che ti rende cieco, nelle cadute c'è il perché della sua assenza. Le nuvole non possono annientare il sole, e lo sapeva bene Paganini, che il diavolo è mancino e subdolo e suona il violino. No, bambini, scusate, non volevamo la maestra Viola, cioè, ma voi manco lo conoscete Battiato, mo scusate, cioè io capisco pure che non era la poesia che avevamo promesso a tutti, però comunque, in sostituzione della maestra Viola, comunque abbiamo una rubrica che nasce oggi, bambini, siete contenti? Ok. Allora, vogliamo fare uno stacchetto, bambini, per dimostrare quanto siamo contenti e abbiamo imparato lo stacchetto di 100 Celle Avengers live? Oh, adesso tutti in enoteca. Va bene, abbiamo fatto la gag. Dicevamo, nasce oggi una nuova rubrica, ma la lanciamo soltanto in una parola. Gabri. Ma soprattutto i cigni di Balacà. Benvenuta Gabri. Grazie per questa presentazione. E io volevo approfittare di questa comoda seduta e direttamente dai locali soppalcati di Radio Forte. Sono contenta e emozionata di essere qui con voi per presentare, come diceva il maestro, questa nuova rubrica, i cigni di Balacà, e sottotitolo Casi giudiziari di plagio musicale. Ebbene sì, ci sarebbe bene anche un commento. Vogliamo dire che anche Iron Man. Che comunque la nostra Gabby è esponente del mondo della giurisprudenza. Avvocatura. No, piuttosto, ecco, se ne raccontano tante, si potrebbero attaccare lunghe pippe sui casi giudiziari di plagio musicale, ma quelli che vi racconterò io sono quelli che non avete mai sentito e che, oltre a informare, insomma, ecco, ecco, spero che vi strapperanno anche una risata, ma perché quante risate ci siamo fatti, e ritorniamo subito a bomba sul titolo di questa rubrica, I cigni di Balacà, che è un chiaro omaggio a, ad Albano, chiaramente, alla nota vicenda giudiziaria che sì, ci ha strappato anche tante riflessioni sul... Esatto, grazie dalla regia anticipa il brano. Dicevo, ci ha strappato tante, tante riflessioni sul plagio musicale, su quello che significa da un punto di vista giuridico, le interpretazioni del, dei tribunali, eccetera, ma anche tante, tante risate. E infatti ricorderete probabilmente che esiste questo famoso monologo del comico Riccardo Rossi che ha ironizzato proprio su una delle vicende più strane della musica mondiale. In effetti, ecco, non avendo avuto il tempo di preparare la clip del comico, abbiamo qui il suonone che ci... può ricordare com'è che Riccardo Rossi si... Ah papà, ma ne senti che questo è come i cigni del Balacà? Esattamente. E il comico ricorda che fondamentalmente Michael Jackson, come ebbe anche modo di dichiarare quando fu costretto a venire a Roma, a Piazzale Clodio, si è dovuto scomodare per venire comunque a testimoniare nel processo che lo vedeva imputato appunto per il reato di plagio, e sostanzialmente non poté fare a meno che ammettere che non aveva assolutamente idea di chi fosse Albano, ecco, non conosceva e non aveva proprio idea della sua esistenza. Però poi ecco, ha insistito anche nel chiamarlo maestro per tutta la testimonianza, effettivamente il maestro Albano di qui, il maestro Albano di lì, e quindi la vicenza giudiziaria, oh sì. No. Oh maestro. Però effettivamente non aveva idea di chi fosse. Maestra, nel 1992, quindi, Albano ha fatto causa al re del pop, poiché riteneva che Will You Be There, che stiamo appunto ascoltando, fosse copiata dai cigni di Balacà. Un suo brano neanche troppo famoso rispetto a altri suoi capolavori, per carità. E inizialmente Michael Jackson perse la causa, effettivamente, e questo è quello che poi aveva la notizia che era un po' rimbalzata. Quindi metto quest'altra. Ok, quando perde la causa mettiamo questa. Ecco, esatto. Okay, vai. Se non che in secondo grado si è scoperto poi, quindi in un secondo momento la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che entrambe le canzoni, quindi sia quella di Michael Jackson che I cigni di Balacà, erano niente poco di meno che ispirate a una canzone del 1939, priva di copyright, Bless You for Being an Angel, degli Ink Spots. E la band, udite udite, a sua volta si era ispirata ad una musica tradizionale dei nativi americani. Ecco, questa è come realmente si concluse la vicenda giudiziaria. Tanto si arriva sempre là. E quindi sostanzialmente Albano dovette ricredersi. Malgrado ciò, comunque, i giornali italiani continuarono poi a riportare la notizia di una presunta sconfitta di Michael Jackson. E Albano ha cavalcato, diciamo, l'onda di questa falsa informazione fino anche dopo la morte di Michael Jackson. Ma per andare all'Isola dei Famosi, maestra? Per andare all'Isola dei Famosi, e fu lì infatti che alla fine è approdato. Quindi grazie per questo spazietto. Ovviamente non si potranno anche non citare altri esempi di plagio, no? Facci un esempio, ma chi c'hai pronto un canna? Per vabbè, non volevo colpire direttamente Virginia, che è già pronta a ringhiare. Ma perché per caso c'è qualcuno di... Ma perché potremmo anche raccontare di quella volta che George Harrison fu accusato di plagio. Non sento più il sottofondo. Sarà per la prossima volta, che ne dice? Sì, io la prossima la volta. Queste sono la prossima volta non vengo. Comunque grazie per aver impreziosito. Le ricordo, avvocato, che noi parliamo di musica qua, quindi lei ci offre quello che, diciamo, noi volgo non capiamo della legge. Dopodiché noi diamo anche il nostro giudizio musicale sugli eventuali plagi che lei ci sottopone. Questo di Albano and Michael Jackson, diciamo che in effetti molti pensavano che fosse finita diversamente, quindi grazie per aver fatto inizialmente luce. Erano state trovate ben 37 note identiche tra i due ritornelli, ben per 37 dire, per dire. E chi era stato a individuarle? Ennio Morricone, non ci crederete mai. Ma povero Ennio, era stato proprio lui chiamato in giudizio. Anche lui è andato a Piazzale Clodio, poraccio. Ma a quello ci abitava. A questo punto posso soltanto ricordare che questa puntata andrà anche essa in podcast, quindi per chi se la fosse persa la troverà sul sito fortepenestino.net. che noi saremo in onda fra due settimane di nuovo qui dagli studi di Radio Forte, e che adesso forse proviamo a fare una roba che comunque sarebbe giusto fare veramente per una volta, perché fino adesso abbiamo fatto finta, abbiamo parlato del musicale, il soppalco, sì, monta Iron Man, era tutta una cazzata, sì, era tutta una minchiata, non fare così dal sotto al soppalco. Adesso invece avverrà veramente, noi diciamo utilizzeremo il musicale del soppalco di Radio Forte come sigla finale per salutarvi. Mi musicalizzo da solo, mi sono musicalizzato. E andiamo a questo punto a parlare di un tema caro a noi di Centocelle Avengers, che abbiamo vissuto a casa, la pandemia. Ma io non sento i miei compagneros. Ora li sento, mis compañeros. Ma non stava l'introduzione in la quale hablava come... Ma abbiamo solo il tempo di dire... Ay, ay, ay, la gata. Ay, ay, ay, la gata. Ay, ay, ay, la gata. Ay, ay, ay, se fue. Ay, ay, ay, la gata.